and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo. Un saluto da K. E un saluto da Drago. Un po' no, devo farlo io così perché, oggi. No, beh, tu no. Oggi parliamo di cose confidenziali, di mamme adolescenti. Insomma, cioè, come adolescenti? Mamme immature, dice, immature, diciamo. Qui si parla sempre di immaturità e non si scappa. Vabbè, quindi mamme immature che matureranno, no? Quindi basta solo aspettare. Sì, cominciamo a parlare così. Sì, però qui non è che maturino immature. Tanto, anzi, molte restano tali e quali quando erano ragazzine. Comunque, il fenomeno delle mamme adolescenti è molto esteso, più di quello che si pensa, perché è così. Ma c'erano si pensa... un sacco di mamme senescenti. Vabbè, si sa, tipo Gianna Nannini. Sì, però sì, Gianna Nannini, d'accordo, però ci sono 10.000 teenage mom in Italia, ragazze dai 14 ai 19 anni che diventano mamme. Save the Children ha fatto uno studio che fa un po' venire nervoso perché racconta una realtà che sembra la stessa da sempre. Cioè? E cioè, queste ragazze madri si tirano sul figlio senza l'aiuto dei padri immaturi che fuggono a gambe levate, salvo poi inscenare pentimenti quando i figli sono più grandi. Quasi tutte queste ragazze abbandonano gli studi e quasi nessuna si iscrive all'università. Sì. I lavori che faranno per mantenere il figlio saranno quindi lavori umili e poco redditizi. Insomma, sembra che il destino delle ragazze madri non sia mai migliorato dai tempi dei nostri nonni. Rimanere incinta da ragazzina, quindi ancora adesso una specie di meravigliosa disgrazia, però. Vabbè, ma non è un argomento d'asilo, vuol dire, non è mica un problema che dobbiamo affrontare adesso i bambini. Mai. Come I non bambini si sono Drago, sempre più precoci dal punto di vista sessuale, solo quello, ma tutti gli altri punti di vista no. Ma quindi magari. Senti, proviamo a sentire il nostro amministratore delegato, magari sì. Qualcosa lo sa. Vabbè, sì. Vedi, non risponde. Ma come, ma? Perché ormai servizio bene. Di segreteria telefonica. Ha capito. Non vuole più chiamare, non vuole più parlare con noi. Riconosce il numero. Ma no, il numero, spero sia anonimo il numero che parte da qui. Sì, ma è l'unico anonimo che lo chiama, hai capito? Anzi, quindi... bisognerebbe chiamarlo col numero di qualcuno che lui, di cui lui si fida. No, quindi... che magari lui non conosce, ma è un numero visibile. Tipo, dai, non so, possiamo chiedere il telefonino al bambino Alberto. Ce dai, l'hai? Proviamo, dai. Ma dov'è? Proviamo, dov'è il bambino Alberto? Non c'è oggi. Ah, beh, perfetto, allora chiamiamo un'altra volta. Vabbè, bello sto numero, va? Andata bene. Lei sta dicendo che è una questione un po' ad asilo Mariuccia, mi pare di capire. È una questione di... sì, insomma, non è più... Sì. Con... sì. I leader della sinistra, sempre incazzati. Scusate, ma ogni tanto parlo anche in inglese e faccio sfoggio della mia conoscenza delle lingue. Io ho capito perché sono sempre incazzati. Perché dovendo venire in Parlamento, si devono fare la barba. Allora sono costretti ad andare in bagno. Non è che si lavino molto, ma... comunque, per la barba, devono andare in bagno. In bagno cosa fanno? Accendono la luce, si vedono nello specchio, si sono già rovinati la giornata! Il nostro bambino premier non si ferma più. Inarrestabile, corre verso... verso dove? Corre all'indietro, verso la primissima infanzia, parrebbe. Parrebbe. Cosa ripeti, parrebbe? No, che suona bene, parrebbe. Ma cosa dici? Ma il nome di un personaggio biblico. Ma dai, parrebbe! Ecco, capo, dai, che scemenze Dico, dici? E Dio disse, parrebbe, ma, parrebbe, ma tu sembri, ma poi alla fine, parrebbe. Vabbè, però dai, più si va avanti, più il dibattito politico sull'Italia che non cresce si trasforma nell'Italia. Litigio tra bambini dell'asilo. Come si fa a dire che i leader dell'opposizione si lavano poco e quando si guardano allo specchio si rovinano la giornata? Vabbè, voglio dire, a parte che non voglio immaginare che cosa pensa il bambino premier quando lui stesso si guarda allo specchio appena si alza. Già. La domanda è lecita, scusa, ma il bambino premier prima di coricarsi lui si smonta e poi si rimonta al mattino? Ma sì, sembra tutto da rimontare, ma secondo me anche i denti, c'è tutto un sistema. No, non voglio pensarci. 3, 4, il punto 2. Non insistere su uno queste schema cose. Complessissimo, capito? Ok. Una specie di kit, capito? Come quando monti, lo smonti, lo metti in una valigetta. Tutto il premier. Lo chiudi e lui è tutte le parti del corpo staccabili. Cioè, tu dici che c'è quindi una specie di kit premier un in una valigetta. Kit, basta sì. Montarlo per avere lì il premier. Sì, ci sono a turno i bambini Letta, Cicchitto, Bonaiuti, che hanno il compito di smontare e poi rimontare il giocattolino magico. Che sarebbe il premier. Questa non è meglio della battutaccia sul fatto che i leader della sinistra non si lavano comunque. Sì, vabbè, ma io mica sono il presidente del consiglio, scusa. Io sono uno che di lavoro deve inventare delle cose che in teoria fanno ridere, in teoria. Sì. Molto in teoria, sì. In teoria. Allora, mi senti? Yeah, I hear you. Ok, allora, facciamo che io facciamo il freestyling e tu facciamo il coro. Volenterissimo. Gildo, mortale. Giocare da solo a battaglia navale. Gildo, Gildo, Gildo, Gildo, sono triste e solitario. Gildo, Gildo, facciamo che tu eri Gildo, Gildo, il mio amico immaginario. Freestyling, Gildo, Gildo, vai con la base. Gildo, Gildo, Gildo, Gildo, sei come un fantasma. Gildo, Gildo, nessuno ti vede. Gildo, Gildo, ma c'hai la voce con l'asma. Gildo, Gildo, Gildo, Gildo, siamo culo e camicia. Gildo, Gildo, io sicuramente sono la camicia, quindi necessariamente tu devi fare il coro. I wanna get a fight freestyling. Gildo, Gildo, facciamo merenda? Giochiamo in B. Montiamo una tenda? Giochiamo la Wii. Facciamo una festa? Chiamiamo due escort? Anzi, due a testa. Però paghi tu. Gildo, Gildo, allora Gildo, facciamo così. Questa volta paghi tu. Se fossimo in TV vi faremmo vedere una foto un po' assurda, però siamo in radio, ve la descriviamo, no? Ci vediamo domani. No, c'è anche la descrizione, esiste la descrizione, anche se siamo nel 2011, esiste ancora la descrizione. Va bene. Allora, questa fotografia arriva da Lagos in Nigeria e mostra dei bambini che issano un cartello con su scritto "Non siamo stregoni, we are not wizards", capito? Bambini contro Harry Potter, tipo. Magari, purtroppo sono bambini che cercano di salvarsi la pelle da un'ondata di fanatismo che sta uccidendo decine e decine di piccoli nigeriani accusati niente meno di essere posseduti da spiriti maligni. Quindi, con tutto il rispetto per tutte le religioni, anche quelle che credono nell'aldilà, capa, tutte le religioni credono rispettiamolo nell'aldilà. Tutte, però pensare che un bambino che piange disperatamente non ha la solita colica, il mal di pancia, ma un diavolo dentro, è una cosa da Santa Inquisizione, anzi da... Vicina colonialista. Viva Atenas! Indias Malvinas! Mira aquí, está con brazos de daga con fuego! Fatto mal. Ecco, nessun colonialista, però tanta carneficina in Nigeria. Quando si sentono notizie di questo genere, K, si spera sempre nella bufala, nello scherzo, ma purtroppo è tutto vero. La fonte è l'organizzazione britannica Stepping Stones Nigeria, o Nigeria, come si dice? Ma chi se ne frega, dai, sei mica Raffaella Carrà. Vabbè, Stepping Stones Nigeria, che secondo loro sono circa 250 finora i bambini rimasti vittime di queste violenze, anche bambini di soli 2 anni. Ahimè, questi bambini sono stati bruciati, avvelenati, sepolti vivi o incatenati per settimane, solo perché le loro famiglie, le stesse famiglie, credevano fossero delle streghe, capito? Ma sono assurdità, popolo nigeriano, ascoltate e chiedo asilo. Bravo. E tenete bene a mente che le uniche streghe che esistono sono la strega nocciola, Maga Magò e Amelia la strega che ammalia. Chiaro? Bravo capo, stavolta hai lanciato il messaggio giusto e infatti ti battono tutti le mani. Con quel che è costato. Guarda che ho aggiunto di tasca mia la mela e lo yogurt, il sacchettino così, riservato alla clac. Non devi abituarli bene. È costato, così. Drago, è costato, però vedi che ne vale la pena. Basta investire, poi dopo hai il tuo ritorno, no? A Bibi, a Bobo, a Bubu, a Baba. Devi dire le mail. Ah, le mail, sono arrivate ancora delle mail. Allora, è arrivata una certa Golina Rodriguez che scrive: ci siamo conosciuti Golina sulla Rodriguez chat. È un nome da spam. E adesso ti sposo. Tutto scritto così. la mia data di nascita è una data che non posso dirla perché è veramente, cioè, da codice penale, e dice che ci siamo conosciuti e che adesso ci sposiamo. Io non lo so, auguri, a me è arrivata. Auguri. Grazie, mi inviterò, manderò le partecipazioni Seychelles o Volterra.